2024 2024 di Enrico Pagliarini. Oggi è il 23 febbraio 2013, la puntata del 23 febbraio 2024, come la tecnologia ci cambia la vita. Io sono Enrico Pagliarini, con me oggi c'è Valeria Bernardi che si occupa della parte tecnica. Ciao Valeria. E poi c'è anche Giorgio De Luca che ci aiuta in regia e mi colla al nostro centralino. Il nostro numero verde a proposito del centralino 800 24 0024 per parlare con noi di quello che volete, più o meno, ma in modo particolare nella seconda parte ci occuperemo di pagamenti in mobilità tramite smartphone. Stanno succedendo tantissime cose, oggi vi presenteremo alcune novità e tracceremo alcuni trend per i prossimi anni. A proposito di trend, l'ENAC si sta occupando già da alcuni mesi in realtà, ma c'è stata una riunione anche questa settimana, di mini droni, perché l'evoluzione tecnologica da un lato e quindi il conseguente abbassamento di prezzo sta creando, o potremmo dire facendo nascere, sia una nuova forma di aeromodellismo ma anche nuovi business. Si possono creare e si creeranno sicuramente delle nuove attività, o comunque alcune aziende utilizzeranno i mini droni in modo diverso e innovativo, quindi nei prossimi anni vedremo sempre più spesso volare nei nostri cieli questi piccoli o aeroplani o anche elicotteri fatti in modo anche particolare, strano. Saluto Roberto Borri, che è il direttore della ricerca di CSP Piemonte, un organismo di ricerca partecipato dalla Regione Piemonte, dal Politecnico e dalla Università di Torino. Borri, benvenuto a 2024. Buongiorno, grazie a lei e agli ascoltatori. Parliamo di mini droni perché voi siete impegnati nella ricerca anche in questo ambito, però prima di parlare di quello che fate, di come utilizzate questi strumenti, questi piccoli apparecchi, questi mini elicotteri anche in alcuni casi, cerchiamo di delineare meglio quello di cui stiamo parlando. Che cosa sono i mini droni nella prospettiva anche di ricerca vostra? I droni sono velivoli a pilotaggio remotizzato. I mini droni, definiscono un attimo la qualificazione rispetto alla tipologia, quindi dimensioni, peso, portata e quant'altro. In questo caso ci rivolgiamo essenzialmente a velivoli che appartengono effettivamente alla classe degli aeromodelli. Quindi sono, potremmo dire, la versione moderna dei modellini d'aereo che abbiamo sempre conosciuto. Quanto grandi sono? Anche in termini aerei di peso. O elicotteri, o quelli che ad oggi si dicono ottotteri, quadrotteri, cioè con più eliche, sono della dimensione di qualche decina di centimetri e pesano meno di qualche chilo, insomma. Quindi sono molto molto piccoli. Per quale motivo negli ultimi anni, cioè quali sono gli elementi che hanno reso più popolare, tra virgolette naturalmente, questo strumento? Perché effettivamente ci sono modelli che costano poche centinaia di euro, adesso cose molto rudimentali anche meno, però insomma se non scendiamo troppo comunque costano abbastanza poco. Sì, come tutte le tecnologie complesse spesso sono il frutto della somma dell'evoluzione di tante altre tecnologie più semplici. A mio avviso ci troviamo proprio in una situazione simile in cui diciamo la parte avionica, cioè quella che rende possibile il volo, è migliorata in termini di resistenza, flessibilità, costi e quant'altro grazie appunto all'evoluzione dei materiali. In più c'è stata la propulsione, che è passata dai vecchi criteri di motori, credo che nei modelli fossero ad alcol, comunque motori di fine a scoppio, rispetto invece alla possibilità di utilizzo dell'energia elettrica, e in questo scenario anche lì le batterie hanno fatto il loro gioco, passando a dei livelli di capacità e di peso che hanno reso il tutto costruibile dentro un oggetto a questo punto di basso prezzo, grande resistenza e flessibilità. E chissà quello che succederà nei prossimi anni. Infatti proprio in questa prospettiva dobbiamo attenderci novità molto interessanti. Voi che cosa ci fate con i droni? Noi come organismo di ricerca sull'ICT siamo attenti a tutto ciò che potenzialmente è in grado di offrire nuovi servizi a valore aggiunto, sia per fini pubblici e sociali, sia per le imprese che possono produrre nuovi prodotti. Quando abbiamo visto questa evoluzione, circa 3-4 anni fa, abbiamo iniziato a ispezionare da un punto di vista in particolare delle componenti software che possono e devono in questo caso interagire con la parte elettronica e aeronautica per poter immaginare di ottenere un oggetto che possa assolvere da solo in totale autonomia dei compiti. Ma che cosa ci si può fare con questi droni? Insomma, a parte il puro aspetto ludico, ma a parte questo aspetto, che cosa ci si può fare? Cioè, nel mondo della ricerca o anche del business, come possono essere utilizzati questi mini droni? Vabbè, ormai quotidianamente abbiamo visto anche una serie di servizi televisivi che mostrano qual è l'utilizzo iniziale, diciamo primario, più facile da immaginare, che sono le riprese cinematografiche o fotografiche. E questo perché ormai anche qua si è abbinata una tecnologia molto evoluta di videocamere di peso assolutamente leggero e di grande qualità, quasi anche in alta definizione. Allora, uno dei primi servizi che vengono fatti, ma che io distinguerei sui servizi due opzioni, quella in cui è essenziale la guida del pilota per la sua esperienza, specialmente quando l'aeromobile è ad ala rotante, e la seconda che invece è in volo totalmente automatico. Nel primo caso i servizi che si possono fare sono servizi di ispezione, di indagine, in cui bisogna avvicinarsi molto ad oggetti, tipo il controllo di un ponte, di una fune, di una diga, cose del genere. Ci possiamo pensare anche a controllo tipo di polizia, perché so che in molti stati del mondo la polizia utilizza mini droni, mi pare anche che in Italia si stia cominciando. Beh, in Italia non so se questo sia assolutamente corrispondente al vero oppure sia qualche caso ed esercizio un po' forzato dell'utilizzo, viste anche le limitazioni imposte sull'uso di questi strumenti. Diciamo che funzionalmente è un oggetto che si predispone appunto per l'osservazione discreta di situazioni e di eventi o anche per fornire una base di supporto poi a tracciamenti o cose di questo genere. Altre possibilità, altre funzioni? Ecco, riguardano il secondo aspetto, quello su cui noi siamo più attenti, perché coinvolge un'evoluzione informatica rilevante, algoritmi molto importanti che permettono di fatto di mettere sul drone molta più intelligenza e di quindi vederlo in uso in ambienti senza l'ausilio di un pilota, di un operatore. In questo caso possiamo immaginare situazioni anche molto utili, tipo l'ispezione programmata di aste fluviali per scoprire i depositi di immondizia abusivi o quant'altro, piuttosto che perlustrazioni su aree colpite da eventi, oppure ad esempio in altre valli alpine il raggiungimento di posizioni per fotografare frane o quant'altro che richiederebbero invece ore di marcia a piedi o situazioni più complesse. Certo, poi naturalmente anche in questo caso la fantasia può suggerire moltissimi altri aspetti e altre possibilità. Naturalmente di fronte ad un'evoluzione tecnologica come quella che abbiamo descritto sorgono anche dei problemi, e uno dei problemi è quello del traffico, perché se cresce l'utilizzo di questi strumenti cresce anche il traffico e ci sono anche addirittura problemi di collisione. Allora l'ENAC sta regolamentando, è attento a regolamentare questo aspetto di fronte a una necessità di regolamentare. Voi avete fatto una proposta per regolare il tutto in modo automatico. Sostanzialmente qual è lo scenario? Ma da un lato esiste lo scenario in cui si colloca l'autorità dell'ENAC, che è quella appunto di proteggere sia gli spazi aerei ma anche le persone che stanno sotto, nel senso che uno dei problemi maggiori di oggi non è tanto la collisione fra oggetti di questo tipo che possiamo trovare in uno stesso spazio, quanto il fatto che in molte occasioni e con degli strumenti che evidentemente non sono ancora inseriti come elementi base sulla sicurezza del volo, possono causare danni a chi occasionalmente si trova nei paraggi. Da un punto di vista attuale della normativa, l'ENAC continua ad avere un rapporto appunto di protezione, che quindi impone l'uso di certi strumenti in aree segregate oppure comunque regolamentate. mentre rilancia ovviamente all'esercizio in caso di servizi pubblici alle autorità che ne hanno competenza per poter ovviare a questi limiti nel caso di utilizzi specifici. Ecco, voi avete fatto una proposta per risolvere alcuni dei problemi. Sì, però la nostra proposta va proprio nella direzione di pensare ancora una volta un po' di più al futuro, nel senso come centro di ricerca abbiamo questo obiettivo. Allora nel futuro, secondo noi, molte di queste applicazioni potranno decollare solo quando si svincolerà l'oggetto dalla perizia del pilota, perché in certi ambiti questo non è assolutamente praticabile, se non attraverso l'acquisizione di servizi professionali che comunque un po' alla volta aumenteranno. Quindi noi giochiamo di più sull'aspetto di cosa e come potrà essere effettuato il volo automatico. In questo senso abbiamo elaborato una procedura e dei meccanismi tecnologici per cui questo volo automatico può essere programmato, inviato elettronicamente a un ente di governo tipo l'ENAC, che può autorizzarlo quasi in tempo reale, e lo stesso può poi essere il punto di riferimento sull'oggetto per svolgere la sua missione, che quindi deve rispettare i punti già confermati dall'ENA, che non può muoversi al di fuori di questi. Bene, Borri, io la ringrazio, le auguro buon lavoro, a presto. Io la ringrazio, lei e gli ascoltatori, e buon lavoro. Io penso che nei prossimi anni vedremo sempre più droni controllare sia aree magari remote del paese, boschi, montagne, eccetera, eccetera, ma anche nelle città. Forse nelle città ci vorrà un po' più di tempo, ma pensate che cosa succederà, e questo è uno scenario abbastanza probabile, non nei prossimi anni imminenti, ma negli anni un po' più, in un futuro un po' più remoto, vedere droni nelle città che controllano la viabilità, che controllano le auto in sosta, magari fanno addirittura la multa, la fotografia, e mandano poi la multa a casa, eccetera, eccetera. Questi sono scenari sicuramente che potranno accadere nei prossimi anni. Questo è 2024, potete comunicare con noi sia attraverso il nostro numero verde 800 24 00 24. In modo particolare nella seconda parte parleremo di pagamenti in mobilità, ci sono alcune novità molto interessanti in questo settore. Le altre modalità per comunicare con noi sono gli SMS 349-238-6666, Facebook attraverso la nostra pagina Facebook, cercate 2024, e anche Twitter, @ _Pagliarini, e anche il tweet di 2024, ovvero 2024_R24. Ci risentiamo tra circa un minuto. 2024. Dopo un'attesa di molti mesi, ne abbiamo parlato, è disponibile anche in Italia il nuovo smartphone di BlackBerry. Il nuovo Z10 si chiama così, è il primo touchscreen tra l'altro dell'azienda canadese, anche il primo con il nuovo sistema operativo, e forse questa è la parte più importante, visto che si è atteso molto questo nuovo sistema operativo QNX, che comunque viene oggi chiamato BlackBerry 10. Allora, il telefono costa prezzo, così si dice tra gli addetti ai lavori, suggerito al pubblico 699, quindi 700 euro, si posiziona fra i top di gamma. E di fatto il nuovo BlackBerry ha tutte le caratteristiche dei migliori telefoni oggi sul mercato. Naturalmente una domanda che tutti si fanno è: quale spazio riuscirà a ricavarsi BlackBerry in un segmento, quello degli smartphone, dove oramai, l'abbiamo detto la settimana scorsa con gli ultimi dati, Apple e con iOS, quindi col sistema operativo iOS, Google con Android hanno una quota di mercato che supera, parliamo del mondo, il 90%. Di certo BlackBerry punta molto sulla piattaforma software, c'è chi dice addirittura che potremo vedere tra qualche mese un'offerta di push email con tecnologia BlackBerry, che rimane ancora molto affidabile, molto buona anche per piattaforme esterne, quindi un'app e un sistema che magari possiamo mettere anche in altri sistemi operativi. Questo lo vedremo. Per il momento sentiamo le parole di Alberto Acito, che è Managing Director di BlackBerry in Italia. Il software è al centro della rivoluzione digitale, questo non c'è dubbio. Senza software l'innovazione ha un valore relativo. È facilissimo fare un hardware bellissimo, la battaglia sulle funzionalità e sulle feature è una battaglia interessante, ma crediamo che il vero valore per i prossimi anni sia sul software e sulla capacità che il software ha di rendere, connettendo persone al cloud e agli oggetti, di rendere la vita poi alla fine di ogni giorno per noi migliore. Visto che questo è un mercato fortemente competitivo, quali sono le caratteristiche, una, due, tre, quelle che ritenete essere più forti rispetto ai concorrenti? Noi oggi partiamo certamente da alcune funzionalità che ci differenziano nettamente rispetto alla concorrenza. Abbiamo fatto un salto quantico da questo punto di vista. La tastiera BlackBerry è da sempre il punto di forza. Ne abbiamo realizzata una, ovviamente non solo fisica ma anche virtuale, che ci rende totalmente diversi dagli altri. È la migliore tastiera, questo lo dicono le prove prodotto. È predittiva, nel senso che riesce a predire le parole e soprattutto a suggerirle vicino alla lettera immediatamente successiva che si sta digitando, quindi evitando di modificare, di spostare lo sguardo troppo frequentemente. È una tastiera che apprende, nel senso che man mano che noi scriviamo, le parole che ci suggerisce sono le parole del nostro vocabolario, del mio, e che sono diverse del suo, e quindi questo rende anche la scrittura molto più semplice. Quindi certamente la tastiera resta il nostro punto di forza. Il mondo della sicurezza e delle aziende è un mondo altrettanto importante. Abbiamo sviluppato una funzionalità elegantissima che si chiama BlackBerry Balance, che permette di dividere il BlackBerry 10 in due ambienti totalmente separati e divisi: un ambiente gestito dall'amministratore del sistema, dall'IT manager, che quindi può gestire tranquillamente tutte le policy di sicurezza per accesso aziendale, e una parte invece totalmente gestita dal singolo. Le due parti sono separate, non possono condividere informazioni, ed è una soluzione elegante perché in qualche modo preserva sia le esigenze dell'IT manager che anche quelle dei dipendenti, che comunque oggi hanno bisogno, come tutte le aziende, di garantire accesso ai social network, ai media, dove le informazioni effettivamente fluiscono. Questi due aspetti sono certamente tra i due più interessanti. Abbiamo fatto un lavoro però anche altrettanto importante nell'ambito del multimedia. La qualità del display è eccellente, abbiamo sviluppato delle funzionalità interessantissime in termini di, ad esempio, fotocamera, e poi il browser. Il browser, non c'è dubbio, abbiamo fatto un salto quantico in avanti. Avevamo certamente dei ritardi da questo punto di vista. Lanciamo il miglior browser HTML5 sul mercato. Potete andare a controllarlo su siti indipendenti di test come html5test.com. Il BlackBerry 10 è primo in classifica in termini di performance, quindi la qualità della navigazione sul browser è semplicemente eccellente. E in ultimo, le applicazioni. Le applicazioni sono il punto di forza di questa piattaforma. Ne lanciamo già 70.000 e moltissime sono locali, le abbiamo presentate oggi. Voi continuate a citare il mercato consumer, dove non siete mai stati molto forti. Per quale motivo? Non è questo un prodotto destinato alle aziende, proprio per i motivi che abbiamo detto prima, soprattutto l'attenzione alla sicurezza, questa divisione tra il mondo interno dell'azienda e al mondo della vita quotidiana di tutti i giorni. Io credo che il tema della sicurezza non sia un tema più prettamente legato al mondo delle aziende. Man mano che gli open data e il cloud continueranno ad esplodere, ci sarà un tema importantissimo di come i consumer riusciranno a gestire le loro informazioni sul cloud in modo sicuro e garantito. Questo è un challenge che ancora oggi non è evidente, ma sarà uno dei temi più importanti nel futuro, e le aziende che si saranno portate avanti nella gestione di questo problema, indipendentemente dal fatto che sia consumer o business, saranno le aziende vincenti. Questo è un aspetto estremamente importante, quello della sicurezza, ma quasi tutte le settimane ne parliamo. C'è troppa poca attenzione in molte aziende italiane, forse in molte aziende italiane, in troppe aziende italiane, relativamente al tema della security, della sicurezza, che ha sia un aspetto comportamentale, quindi i dipendenti si devono comportare in un certo modo, ma anche un aspetto tecnologico. A proposito di BlackBerry Z10, questo nuovo prodotto, uno potrebbe dire che uno dei difetti è la durata della batteria, ma uno si dovrebbe anche domandare qual è oggi uno smartphone che ha una batteria di lunga durata. Purtroppo nessuno. Tra le novità è sicuramente attraente per i consumatori, non per le aziende, quindi per il mondo consumer, il fatto che non sia più necessario sottoscrivere un'offerta dati specifica per BlackBerry, ma basta una navigazione in mobilità. C'è un nostro ascoltatore che dice: beh, tutte le altre tastiere sono predittive. Sì, è vero, ma questa ha un sistema effettivamente fatto molto bene, che dai test che abbiamo fatto noi con anche i nostri collaboratori è attualmente migliore rispetto alle altre, è fatto molto molto bene. A chi dice che il prezzo è elevato, è sicuramente elevato. È vero però che oramai questi prodotti sono destinati alla vendita abbinata ad un piano dati. Allora, se voi dovete scegliere un telefono da abbinare al vostro piano dati, quale scegliete? Beh, quello che costa di più, quindi c'è una tendenza a tenere alto il prezzo di listino di questi telefoni, perché poi quando uno va a scegliere il telefono da abbinare al piano dati, beh, è molto attratto da un prodotto che si presenta con un prezzo molto elevato. Digital News. Notizia molto interessante, allora, si è chiusa in Gran Bretagna, direi che sia l'ultimo grande paese europeo che non aveva chiuso l'asta per assegnare le frequenze dove partiranno i servizi 4G. Il governo britannico puntava ad incassare 4 miliardi di euro, abbiamo tradotto dalle sterline agli euro, allora, puntavano a incassare circa 4 miliardi di euro, ne hanno incassati solo 2,7. Tanto per avere un termine di paragone, la gara italiana ha generato 3,9 miliardi di entrate, probabilmente è contribuito anche la crisi economica che si protrae, quindi gli operatori sono meno incentivati ad investire. Allora, si sono aggiudicate la gara EE, Everything Everywhere, che ha già uno spettro, una parte di frequenza, ha già lanciato i servizi, ma è l'unica. Questa è una società controllata da France Telecom e Deutsche Telekom, e poi Hutchison, che ha il marchio 3 anche in Gran Bretagna, Niche Spectrum, che è una filiale di BT, Telefonica e Vodafone. Digital News. Sony ha presentato con grande enfasi a New York la nuova PlayStation 4, una evoluzione anche in chiave social per i giochi più belli, più coinvolgenti e che si potranno anche condividere con gli amici. Altra novità su cui stanno lavorando anche altre aziende, quindi non solo Sony, riguarda il cloud gaming, cioè per giocare in streaming, e quindi affidando a un server in rete la potenza di calcolo per fare girare i videogiochi. Del resto questa è una delle caratteristiche del cloud, quindi utilizzare potenza di calcolo che si trova in altro luogo e non sulla nostra macchina. Allora, c'è però un problema: la presentazione è stata fatta con grande enfasi, un grande evento a New York, però Sony non ha mostrato la macchina, quindi nessuno sa come è fatta questa PlayStation 4, ha fatto solo vedere alcune novità sul modo di giocare, e comunque il prodotto uscirà a Natale, quindi avremo modo e tempo per riparlarne. Anche Microsoft ha annunciato poche ore fa di avere subito un attacco informatico simile a quello che hanno registrato la scorsa settimana, o comunque nelle ultime settimane, Facebook ed Apple. Per quanto riguarda Facebook, alcuni esperti di sicurezza dicono che ci sono ancora dei rischi per i dati degli utenti che potrebbero essere prelevati attraverso app di servizi esterni, di terze parti. Oggi, lo sapete, in molti casi quando si usa un servizio digitale, un'app, spesso ci viene data la possibilità di accedere con le credenziali di Facebook, e che in questo caso alcuni esperti di sicurezza dicono che ci potrebbero essere alcuni problemi. Un'ultima notizia arriva da Frosinone. Allora, un buon esempio di come è possibile usare un collegamento in fibra ottica con molta banda e una bassa latenza. Questa è una delle caratteristiche della fibra ottica. Allora, dicevo, arriva da Frosinone, dal conservatorio, che in collaborazione col consorzio GAR, che si occupa dei collegamenti internet tra università, mondo della ricerca, eccetera, eccetera, allora, un collegamento ad alta capacità verrà usato per organizzare lezioni a distanza, altre attività didattiche oppure addirittura concerti a distanza. E naturalmente nel caso dei concerti la bassa latenza è la cosa più importante, perché sennò non si va tutti assieme al ritmo della musica. Ci fermiamo per qualche minuto, ci sono le notizie di GR24, riprendiamo tra poco parleremo di evoluzione dei servizi di pagamento in mobilità. Oramai con gli smartphone possiamo sia pagare un servizio, un prodotto, così come facciamo con una carta bancomat o una carta di credito, ma possiamo anche accettare pagamenti. Di questa novità e di altro parleremo tra poco. Il nostro numero verde per chiamarci anche per le vostre domande o le vostre considerazioni è 800 24 00 24. Tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter, cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, 800240024, per parlare con noi di pagamenti elettronici in mobilità. Naturalmente al centro di tutto ciò c'è la diffusione degli smartphone, e a proposito di smartphone, di questo mercato esplosivo che continua a crescere anno dopo anno con numeri strabilianti. Pensate che dal 2011 al 2012 la crescita del segmento degli smartphone nel mondo, parliamo di mercato mondiale, è cresciuta di quasi il 40%, quindi siamo ancora in una fase di espansione, e questo accade anche nei mercati come l'Italia. Dicevo, a proposito di questo mercato, la prossima settimana ci sarà a Barcellona il Mobile World Congress, quindi la fiera mondiale che riguarda il mondo della mobilità. Una volta si parlava solo di telefonia mobile, di cellulari, oggi si parla di un ecosistema molto più complesso, una fiera che oramai esplode. Una buona notizia è che rimanga ancora in Europa, almeno fino al 2018 rimarrà in Europa, perché c'è un contratto con la città di Barcellona, tra la GSMA Association e la città di Barcellona, che mantiene qui il... Però questa è una domanda che ci facciamo ogni anno quando partecipiamo a questa fiera, perché chiaramente i poli evolutivi di questo mondo sono, per quanto riguarda il software, gli Stati Uniti, e per quanto riguarda i numeri, l'Asia, anche se buona parte dell'innovazione viene fatta ancora e anche in Europa. Saluto Alberto Adorini, che è venuto nei nostri studi, country manager di Payleven per l'Italia. Benvenuto 2024, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Alberto, tu sei d'accordo che ormai per quanto riguarda il software, l'evoluzione della mobilità, parliamo di Stati Uniti? Sì. Puoi anche non essere d'accordo. No. Però su questo sono assolutamente d'accordo. Sono anche d'accordo sul fatto che gli smartphone stanno vedendo un'evoluzione incredibile negli ultimi anni, che ha portato ad avere sempre più applicazioni che abbracciano tutta una serie di branche diverse. Esatto. A proposito di applicazioni, voi, proprio basandovi su un mercato come quello italiano, o direi quello europeo, dove di smartphone ce ne sono già una buona quantità, quindi possiamo parlare di un mercato interessante, avete lanciato un'applicazione e un terminale che fa diventare lo smartphone un POS. Ormai il POS lo conoscono tutti, cioè è il punto dove vengono accettati i pagamenti elettronici, quindi dove inseriamo il nostro bancomat, la carta di credito, eccetera, eccetera. Che cosa, spiegaci un po' come fa uno smartphone a diventare un POS. Assolutamente. Payleven è una soluzione che permette agli esercenti, piccoli e medi esercenti titolari di partita IVA, di accettare pagamenti tramite carte di credito e carte di debito sui propri smartphone. È basato su una piccola app che si può scaricare su terminali iOS e Android. È un dispositivo che si connette in Bluetooth al nostro cellulare del dispositivo nel quale andiamo a inserire la carta per leggere il chip con i dati. Quindi poi entreremo più nel particolare. Questa sicuramente è una delle novità. Voi avete lanciato da quanto tempo? Noi abbiamo lanciato a metà settembre una prima soluzione tecnologica, e molto recentemente la soluzione tecnologica del chip and pin, che consente di accettare tutte le carte, comprese le carte di debito o comunemente detti bancomat. Sì, i bancomat, tu sei preciso, invece. Poi traducendo, insomma, i bancomat e tutte le carte con il chip, quindi diciamo infiliamo in questo lettore la nostra carta, questo lettore collegato con lo smartphone, e anche in questo caso la parte, diciamo, di computing viene fatta dallo smartphone. A proposito di pagamenti in mobilità, allora, questa settimana il Politecnico di Milano, la School of Management del Politecnico di Milano, ha tra i vari osservatori anche un osservatorio su NFC and Mobile Payment, quindi pagamenti in mobilità, con uno sguardo anche verso questa nuova tecnologia degli NFC, di cui parleremo sicuramente. Ne abbiamo parlato con Alessandro Perego, che è il responsabile scientifico di questo osservatorio, per capire innanzitutto, quando parliamo di pagamenti in mobilità, a cosa stiamo facendo riferimento. Allora, quando parliamo di pagamenti in mobilità intendiamo, da un lato, i pagamenti in mobilità da remoto, quindi immaginando che colui che compra e colui che vende non sono vicini, si utilizza il cellulare, essenzialmente la rete cellulare, per gestire il pagamento o altre fasi dell'acquisto. Quando dico rete cellulare intendo ad esempio gli SMS nella forma più semplice, o applicazioni o navigazioni su mobile site. Seconda invece versione del mobile payment è quella che si chiama di prossimità. proximity payment. In questo caso si immagina che colui che compra sia vicino a colui che vende, tipicamente in un processo che vede la presenza del consumatore in un negozio fisico, e si utilizza in questo caso il cellulare per gestire la fase di pagamento o altre fasi, utilizzando delle tecnologie di prossimità, cioè di comunicazione di prossimità, tra cui ad esempio quella che si chiama NFC, Near Field Communication, in cui si usano le tecnologie cosiddette RFID, Radio Frequency Identification. Possiamo dire che nel primo caso stiamo parlando di una esperienza simile in qualche modo a quella del web? Esattamente, diciamo che l'esperienza remote, cioè del mobile remote payment, è parte di un fenomeno che possiamo chiamare di mobile commerce, che è da un certo punto di vista simile all'esperienza dell'e-commerce. Certo, valorizza le caratteristiche proprie del device cellulare e quindi è particolarmente interessante quando bisogna effettuare degli acquisti in cui conta il fattore tempo, ad esempio a partecipazione ad aste o acquisto di occasioni, oppure ad esempio acquisto di biglietti, per esempio del trasporto, che richiedono magari di prendere delle scelte all'ultimo momento. Sì, in effetti, diciamo, se posso pianificare un acquisto, magari lo faccio via computer o via tablet, seduto in casa, in ufficio. Quando invece, come diceva Perego, il fattore tempo è determinante, la comodità di poter fare la stessa cosa attraverso uno smartphone mentre camminiamo, mentre siamo all'esterno, è sicuramente vincente. Sono in strada, compro un biglietto per l'autobus o qualsiasi altra cosa mi passi per la testa. Allora, per il momento, il pagamento invece di prossimità, quindi avvicino il cellulare al POS e pago, vale ancora molto poco, perché di fatto non, almeno fino al 2012, non c'erano servizi. Solo da poche settimane sono disponibili servizi di questo genere anche in Italia. In ogni caso, in generale, se guardiamo il mondo dei pagamenti via smartphone, questo è un mercato che cresce del 30%. Sentiamo quanto vale oggi secondo appunto i calcoli dell'Osservatorio del Politecnico di Milano. Allora, in Italia, con riferimento al 2012, il mobile remote payment and commerce ammonta a circa 900 milioni di euro. Ammontava a 700 l'anno precedente. Questi 900 milioni di euro sono quasi il 50%, diciamo così, l'acquisto di contenuti digitali, e per il restante pagamento o acquisto di beni o servizi. Prevalentemente acquisto, secondo il modello del mobile commerce, quello che assomiglia all'e-commerce di cui parlavamo prima. Una parte, un po' più di 200 milioni di euro, è pagamento in senso stretto. In questo caso si parla di ricariche telefoniche, si parla di bollettini e, per una parte ancora molto limitata, si parla di pagamento di servizi tipo il trasporto pubblico locale. Esiste, diciamo, nei numeri che voi avete calcolato, esistono già una parte di pagamento di prossimità o ancora non c'è nulla, quindi lo cominceremo a vedere nei prossimi, forse già settimane? Allora, nel corso del 2012 c'è qualche sperimentazione con riferimento al pagamento di prossimità, e quindi il numero di potenziali utenti è limitato, quindi si parla di un ordine di grandezza, diciamo così, trascurabile. Non è zero, ma è trascurabile nello scenario complessivo che ho appena prefigurato. Inizieremo a vedere qualcosa sul 2013. Noi abbiamo visto che nel 2012 ci sono state molte più sperimentazioni di quante non ci fossero state nell'anno precedente, ne abbiamo contate almeno una quindicina. Molte di queste diventeranno servizi commerciali nel corso del 2013, e quindi ci aspettiamo di registrare già un impatto sul transato nel 2013. Peraltro le nostre stime dicono che comunque al 2016 questo secondo mondo che abbiamo chiamato della prossimità o del proximity peserà di più rispetto al mondo del remote, perché gli ambiti di utilizzo sono più importanti. Quindi possiamo dire che il pagamento in mobilità, come si dice, il cellulare che diventa il tuo borsellino elettronico, creerà comunque favorirà una crescita molto forte? Sì, le nostre stime al 2016 parlano di un valore di mobile payment in Italia nell'intorno dei 15 miliardi di euro di transato. È una cifra importante, non è una cifra pazzesca se pensiamo che in questo momento il totale delle transazioni in contanti in Italia è nell'ordine di grandezza dei 400 miliardi di euro. Quindi se pensiamo che una certa parte di questi si trasferisca nel tempo verso gli strumenti digitali, in particolare il mobile, 15 miliardi sono ancora un primo passo in questo percorso. Di questi 15 miliardi, 4, secondo le nostre stime, si riferiscono alla modalità mobile commerce da remoto, e 11, che in realtà è una media di scenari diversi, si riferiscono al fenomeno di prossimità. E questa era la voce di Alessandro Perego, che è responsabile scientifico dell'osservatorio NFC and Mobile Payment del Politecnico di Milano. Riprendiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo, stiamo parlando di pagamenti in mobilità, tutto grazie agli smartphone. Allora, naturalmente poco fa abbiamo parlato delle varie possibilità che abbiamo e abbiamo parlato delle possibilità che ha il cliente, colui che paga, può utilizzare il cellulare così come si fa col computer, inserendo ad esempio i dati della carta di credito, oppure scalando il credito telefonico, oppure questa è l'altra grande evoluzione che già cominciamo a sperimentare in alcuni casi anche in Italia, cioè il cellulare che si sostituisce alla carta di credito. Io avvicino il cellulare su un POS e pago. Allora, naturalmente ci sono molte evoluzioni anche per chi deve accettare i pagamenti, quindi gli esercenti che ancora ad esempio non hanno il POS oppure hanno dei POS vecchi, sono poco anche abituati o malfidenti a utilizzare questi sistemi. Allora, sapete che noi amiamo la tecnologia, ci sono una miriade di vantaggi nell'utilizzo della moneta digitale, la moneta elettronica. Il primo è sicuramente la sicurezza, è molto più sicura la moneta digitale rispetto alla moneta di carta e ad esempio per il sistema paese la moneta elettronica ha un costo decisamente più basso. Poi magari sui costi parliamo. Alberto Adorini di Payleven, voi sicuramente siete una soluzione per gli esercenti che non hanno un POS o anche per quelli che hanno un POS. Potrebbe essere una soluzione anche per coloro che hanno già un POS. La verità è che al momento esiste un mercato sconfinato di persone che il POS non lo utilizzano. Stiamo parlando di circa 4 milioni di PMI in Italia, circa 1,5 milioni sono i POS installati, considerando tutti i POS, anche quelli delle grandi catene tipo Esselunga o MediaWorld, e quindi stiamo parlando almeno di un 60% di esercenti che ad oggi non accettano pagamenti con carta. Senti, come funziona il vostro sistema? Cioè, io ho detto è un sistema per trasformare il mio smartphone in POS, quindi faccio un esempio, me l'immagino, so, un artigiano che viene a casa mia, con un sistema del genere mi può offrire la possibilità di pagare con il mio bancomat o la mia carta di credito, quindi un servizio eccezionale e molto interessante. Però spiegami un po' quali sono anche gli ingredienti che servono, cosa devo comprare, qualcosa, cosa devo abbonarmi a un servizio, che cosa? All'atto della registrazione al cliente vengono chieste tre tipi di informazioni: le sue informazioni personali, le informazioni sulla sua società, quindi banalmente potrebbe essere la partita IVA, nel caso dei titolari di partita IVA o una visura camerale. Comunque questo vale solo, questo è un servizio per chi ha la partita IVA, giusto? Esatto, esatto. Cioè, anche perché giustamente deve accettare dei pagamenti, insomma deve essere tendenzialmente un'azienda che accetta pagamenti. Esistono sì. Dei casi al mondo dove questi tipi di servizi vengono forniti anche a dei consumatori finali. Noi per il momento abbiamo deciso di non andare in questa direzione. Perfetto. Dopodiché? La terza cosa che serve è l'IBAN sul quale il nostro cliente, il merchant, vuole che vengano accreditati i fondi. Ok, devo abbonarmi a un servizio? Devo comprare qualcosa? Devi sottoscrivere un contratto con noi e acquistare un dispositivo che nel nostro caso è in offerta lancio a 49 euro. Si può acquistare direttamente sul nostro sito internet e poi saremo noi a prenderci cura del fatto di spedirvelo a casa. Dopodiché è finito? È finito nel senso che il cliente farà l'installazione di questo dispositivo in totale autonomia. È tanto facile quanto configurare un auricolare che si connette in Bluetooth oppure l'autoradio della nostra macchina. Sì. Senti, cito il famoso tema delle commissioni, perché naturalmente voi come guadagnate? Immagino non vendendo questo strumento. No, il guadagno non è lì. Il nostro guadagno è un guadagno totalmente variabile che dipende dalla commissione che prendiamo. Noi prendiamo una commissione del 2,75% sul transato, però a differenza di molti contratti con i POS tradizionali non chiediamo alcun canone mensile. Se il cliente lo utilizza noi guadagniamo, se no non siamo contenti, ma sì, a lui non costa nulla. Allora, devo dire che io erano mesi che aspettavo che una soluzione del genere arrivasse in Italia, perché negli Stati Uniti è noto, adesso è noto se uno si documenta su questi temi, il caso, il grande successo di Square, che è un sistema che si attacca ad uno smartphone e permette appunto di trasformare lo smartphone in POS. In Italia, ma in Europa, le cose sono un po' più complesse anche dal punto di vista regolamentare, quindi forse ci è voluto più tempo anche per questo motivo, o mancava la base di smartphone installata? Non era un problema di domanda di mercato. Riprendendo anche alcuni dei punti che hai menzionato prima, in Italia c'è un'opportunità di mercato incredibile, dovuta al fatto che le PMI sono moltissime, dovuta al fatto che la penetrazione degli smartphone è tra le più alte al mondo, e dovuta al fatto che comunque stiamo vedendo un trend di crescita nell'utilizzo dei pagamenti con moneta elettronica. Senti, il problema non era lì, il problema era un problema regolamentatorio, dove negli Stati Uniti abbiamo delle carte di credito che hanno solo la banda magnetica, mentre in Europa ha prevalso la tecnologia più sicura del chip. Quindi il nostro mercato è sicuramente più sicuro, e magari sul tema della sicurezza torneremo, ma qua stiamo parlando di servizi e di sistemi sicuri, o comunque molto più sicuri del contante. Ma io penso che ad esempio un artigiano abbia solo dei vantaggi a ricevere moneta elettronica. Certo, se vuole evadere le tasse no, questo è evidente, però noi parliamo a persone oneste che pagano fino all'ultimo euro. Senti, voi, a proposito di percezione, perché dal punto di vista regolamentare e tecnologico ormai c'è tutto e tutto a disposizione, qua c'è un problema culturale di approccio. Ecco, di fronte, non temete che le piccole e medie imprese italiane e i consumatori italiani siano poco disposti a fare questo passo verso l'utilizzo della moneta elettronica? Ma senz'altro c'è un'opera di educazione e di convincimento che va fatta sul mercato. Noi speriamo anche che in questo senso sia il governo a darci una mano, facendo passare il decreto di cui hanno parlato ultimamente, che dall'inizio del 2014 potrebbe abbassare significativamente la soglia dei pagamenti che possono venire effettuati in contante. Adesso poi vedremo quale governo. questo è un dibattito che faremo in altre trasmissioni nei prossimi giorni. Senti, è possibile pensare che il vostro sistema accetti presto anche carte e naturalmente quindi smartphone con chip NFC? Per adesso no. Per adesso il dispositivo non ha il chip NFC all'interno. Il problema di adozione dell'NFC è proprio legato al fatto che per poter funzionare tu hai bisogno di una soluzione dal lato dell'esercente, ossia un POS che è abilitato ad accettare l'NFC, e una soluzione da parte dell'utente che deve avere un telefonino che è abilitato all'NFC. Noi diciamo che stiamo tenendo sott'occhio il mercato. Se dovesse crescere la domanda di NFC, potremmo sostituire i nostri dispositivi con dispositivi che hanno anche il chip NFC. Esatto. La domanda di NFC crescerà? Quanto crescerà? Allora, Giovanni Miragliotta è responsabile operativo, uno dei responsabili operativi dell'osservatorio NFC e Mobile Payment del Politecnico di Milano. Benvenuto, grazie per essere con noi. Buonasera, dottor Paglialini. Dunque, Miragliotta, Che cosa possiamo aspettarci? Ma magari facciamo anche un recap, ricapitoliamo che cosa intendiamo per NFC. NFC è una tecnologia di comunicazione, di scambio dati di prossimità. Appartiene, come citava Alessandro Perego, al più ampio coacervo delle tecnologie di identificazione in radiofrequenza ed è stata accordata per lavorare a bassissima distanza, pochissimi centimetri, e con una buona capacità di banda che consente quindi di scambiare dati abbastanza elaborati e strutturati anche con crittografia e sicurezza. Quindi è una tecnologia che si presta molto bene per lo scambio di credenziali personali. Esatto, questo chip, se viene messo all'interno di una carta di credito o di debito o qualsiasi altra carta, naturalmente avvicinandola ad un POS abilitato alla lettura di questa tecnologia, fa diciamo accadere il pagamento, ma può essere utilizzato in molti altri campi. L'abbiamo detto in altre trasmissioni, ci sono società di trasporto pubblico che utilizzano questa tecnologia per, ad esempio, far obliterare, utilizzo questo termine così tutti capiscono, l'abbonamento o il biglietto, altre tecnologie. Insomma, anche in questo caso basta la fantasia. Naturalmente, se questo chip lo inseriamo in uno smartphone, e molti dei nostri ascoltatori, guardando le specifiche dei nuovi smartphone, vedranno che c'è scritto NFC, ecco, se mettiamo questo chip all'interno di un telefonino, beh, probabilmente, anzi sicuramente, questo telefonino può anche essere utilizzato per pagare, per contenere l'abbonamento. Allora, ci sono già alcuni servizi, ne abbiamo parlato, ricorderete, il 22 dicembre è stato lanciato il primo servizio in Italia NFC da Poste Mobile, e questa settimana TIM nell'area di Milano ha presentato il TIM Wallet. Allora, saluto il nostro ospite Alfonso Mariconda, che è responsabile dei nuovi progetti all'interno di Telecom Italia. Benvenuto, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Che cos'è il TIM Wallet? Il TIM Wallet è sostanzialmente un'applicazione che va su uno smartphone equipaggiato con NFC, che consente di virtualizzare su un portafoglio, come se fosse un vero portafoglio, le carte che normalmente ci portiamo dietro, quindi carte di pagamento, carte loyalty oppure carte per abbonamenti su trasporti e via dicendo. Quindi non stiamo parlando solo di pagamenti in questo caso? Non stiamo parlando solo di pagamenti come evoluzione. Il lancio a cui lei ha fatto riferimento a Milano è un lancio che avviene sui pagamenti. Quindi noi abbiamo lanciato l'applicazione, che è aperta anche per altri tipi di servizi, ma in questo momento lanciamo sui pagamenti, e nei prossimi mesi poi svilupperemo tutti gli accordi che ci consentiranno di inserire nel portafoglio virtuale sul telefonino tutte le altre carte. Senta Mariconda, che cosa è necessario avere per fare, nel caso dei pagamenti, il pagamento, nel caso, che ne so, dell'abbonamento al servizio di trasporto pubblico, il viaggio? Ecco, che cosa è necessario avere? Intanto bisogna avere il telefonino abilitato per poter effettuare pagamenti, che è il primo passo, che è quello che stiamo iniziando a diffondere sui nostri clienti nell'area di Milano. Quindi occorre un telefonino NFC, dotato di tecnologia NFC di cui avete parlato prima. Occorre una SIM particolare che è in grado di gestire l'NFC, perché tutti gli elementi di sicurezza per aumentare al massimo i livelli di sicurezza delle transazioni sono contenute nella SIM, e quindi il cliente deve possedere una nuova SIM che deve sostituire la vecchia SIM, ma naturalmente mantenendo lo stesso numero. E poi occorre una carta che viene virtualizzata sul telefonino per poter pagare. Nel caso del nostro lancio, noi proponiamo una carta Intesa San Paolo sul circuito Visa. È una carta di credito? Sì, quindi, beh, certo, sì. È una carta, sì, di credito, se una persona già possiede una carta Visa con Intesa San Paolo, per cui remotizziamo la carta che ha già. Se invece l'attiva, attiviamo una carta di debito, cioè una carta prepagata. Sì. Mi dico una cosa che è interessante per capire anche lo sviluppo di questi servizi. Se io sono cliente di un'altra banca, in questo caso l'avete appena lanciata, è ovvio che, insomma, l'offerta che voi state proponendo è assieme a Intesa San Paolo, ma diciamo, nei prossimi mesi che cosa potrebbe succedere? Noi stiamo parlando sostanzialmente con tutto il mondo bancario per portare a bordo del nostro wallet tutte le principali carte che circolano. È chiaro che è un processo che avverrà lentamente, non sarà istantaneo, ma contiamo nel giro di un paio d'anni di portare a bordo tutte le principali banche italiane. Quindi, quando si dice borsellino elettronico, si dice correttamente, cioè uno, così come nel portafogli, potrà inserire carte virtuali, perché non è che ci inserisce delle carte vere e proprie, di tutti gli operatori che hanno stretto accordi con voi. Esattamente, è proprio quello a cui noi tendiamo. Sì, questo immagino che possa succedere nell'industria in generale, cioè tutti gli operatori di telefonia mobile, visto che stiamo parlando di smartphone, e visto che l'elemento di sicurezza è stato deciso che viene inserito nella SIM, che è controllata dall'operatore di telefonia mobile, diciamo, questo scenario varrà, immagino, per tutti gli operatori di telefonia mobile. Ci fermiamo per qualche minuto, ci sono alcuni messaggi pubblicitari, riprendiamo tra poco. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, per le vostre domande, per le vostre considerazioni, 800240024, tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Stiamo parlando di pagamenti elettronici in mobilità. Ci sono molte novità che riguardano il mercato italiano, stanno arrivando anche nelle ultime settimane, e stiamo proprio parlando di due servizi, quello presentato questa settimana da Payleven e il Team Wallet presentato da Team proprio nei giorni scorsi. Giovanni Miragliotta, quali sono gli altri servizi? Facciamo alcuni esempi di servizi a proposito di pagamento in mobilità, cose che vengono già utilizzate, cose che stanno per essere utilizzate e magari verranno utilizzate nelle prossime settimane. È una domanda questa che ci consente di spaziare, di tornare quindi a parlare anche dei servizi di pagamento in remoto. Oggi esiste già un mercato significativo, come abbiamo visto quasi vicino al miliardo di euro, che tocca parte dai contenuti digitali, ricariche telefoniche, donazioni. Sono queste tutte occasioni molto, molto importanti in cui il cittadino, il consumatore, si è abituato a utilizzare il telefono per dare disposizione di pagamento, quindi per disporre del proprio denaro. Più di recente sono cresciuti i servizi, oggi superano i 40, con cui si può acquistare un titolo di parcheggio, con cui si possa pagare un bollettino di pagamento, con cui si può fare checkout, ad esempio in contesti di prossimità, uscendo da un sito internet dove si è fatto un acquisto che poi verrà consegnato a casa. Tutti questi servizi si sono appoggiati fino ad oggi su tecnologie più consolidate come l'SMS o l'applicazione o i siti mobile, e adesso sono la base, il patrimonio di confidenza del consumatore italiano verso l'ingresso nel mondo di prossimità che come abbiamo visto deve ancora avere uno sviluppo infrastrutturale sia dal punto di vista dei POS NFC sia dal punto di vista dei terminali, anche se anche questo è un punto importante che la nostra ricerca ha toccato. Le dinamiche sono estremamente forti, estremamente buone. Dal punto di vista dei telefoni NFC se ne contano 2 milioni e mezzo alla chiusura dell'anno scorso. Quindi abilitati. Già abilitati. Questa è una cosa che è poco visibile al consumatore poiché non ci sono ancora dei servizi attivi che egli possa utilizzare. E il numero di telefoni che si diffonderanno cresce, le nostre stime ci portano prudenzialmente a parlare di almeno 6 milioni di telefoni già alla fine dell'anno che viene. Un trend ugualmente così forte, direi quasi impetuoso, osserviamo dal punto di vista dei POS, ne stimiamo circa 170.000 abilitati alla fine del 2013, che sono, ricordando il numero che diceva prima Dorini, più del 10% del totale installato. E questo soltanto per parlare di pagamento, perché poi sopra c'è tutto il mondo dei servizi addizionali, che sfrutteranno il fatto che il telefonino diventa una comoda, pratica interfaccia di prossimità, e quindi non solo facciamo riferimento a un portamonete dove noi oggi mettiamo la tessera abbonamento per entrare nella metropolitana, piuttosto che non le carte di pagamento, perché noi nel nostro portamonete mettiamo la carta fedeltà dell'autolavaggio, mettiamo il badge con cui io stesso entro nella mia università e molti altri titoli, molte altre credenziali personali, che sono tutti servizi che nel tempo più o meno velocemente andranno virtualizzati, sì, e ci accompagneranno nel portamonete. Sì, questo è molto, molto interessante, quello delle applicazioni e dei servizi correlati. Allora, a proposito di telefoni, va detto che direi l'unico tra i grandi brand che non ha NFC e iPhone, e sicuramente molti si attendono prima o poi un'entrata in questo mercato dell'NFC anche di Apple. Volevo chiedere ad Alfonso Mariconda di Telecom Italia, per quanto riguarda il vostro progetto, voi avete già idea, immagino di sì, però non so se ce la potete dire, di quando questo servizio verrà diffuso su tutto il territorio nazionale? Sì, noi in questo momento abbiamo un piano di, come dicevo, abbiamo lanciato solo su Milano. Abbiamo piano entro l'estate di estendere altre due città, posso confermare dovrebbero essere Roma e Torino, perché chiaramente l'estensione delle altre città dipende dal tipo di accordi che riusciamo a fare con tutti, con i merchant e con chi deve poi accettare il pagamento con l'NFC, e poi contiamo nel corso del 2014 di estendere a tutto il territorio nazionale. Senta, ma una curiosità, come fate a sapere se io con un telefono, ammettiamo che io appunto mi abiliti con la vostra offerta, con quella di Intesa San Paolo, ad effettuare un pagamento con il cellulare NFC, ma voi come fate a sapere che io, se io vado in una città, che ne so, a Roma, dove magari c'è qualcuno che ha già il POS NFC, lo controllate con diciamo la rete di telefonia mobile? Assolutamente non controlliamo, noi abilitiamo col circuito i pagamenti sui POS NFC in funzione dell'area, ma è il POS che viene abilitato localmente. Quindi Capito, perfetto. Il POS del negoziante sa ovviamente di essere a Palermo e sa che in quel momento non può accettare una transazione da mobile, deve essere abilitato. Chiarissimo, chiarissimo. Senta, se uno va all'estero cosa succede? Quindi in questo caso non funziona, anche se la carta ad esempio nel circuito Visa, in questo caso proprio per la cosa che ci ha appena detto, non va. In questo momento non funziona, però la soluzione tecnica che abbiamo adottato è una soluzione assolutamente standard che ci consentirà di far funzionare nel corso del 2014 il servizio anche all'estero. Perfetto. Le chiedo una cosa giusto per chiarire così gli ascoltatori, perché qualche ascoltatore giustamente dice ma in questo caso consumo anche il credito telefonico oppure il traffico dati? No, cioè io entro, il cellulare in questo caso parla col chip NFC, col POS, punto e basta. Assolutamente non si consuma il credito telefonico, perché chiaramente se uno ha virtualizzato una carta prepagata va a prendere risorse finanziarie dal borsellino che c'è sulla carta prepagata. Il traffico dati, se l'applicazione è stata scaricata precedentemente, ovviamente non viene utilizzato, perché la transazione è tutta localmente via NFC attraverso il POS. Bene, Marie Conde, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Grazie. Dunque, sentiamo alcuni ascoltatori. Piero che chiama dalla provincia di Bologna. Piero, buongiorno. Io volevo chiederle, perché non ho afferrato bene il collegamento, la possibilità di trasformare uno smartphone in un POS. È indipendente dal sistema operativo dello smartphone o ci sono delle limitazioni? Domanda chiarissima e ci dà l'occasione per approfondire e ribadire. Grazie Piero e buona giornata e buon weekend. Adorini. L'app di Payleven può essere scaricata in modo gratuito sul proprio smartphone. Per il momento supportiamo i sistemi iOS, quindi tutti i dispositivi Apple sia iPad che iPhone, e tutti i dispositivi Android. Esatto. Diciamo, questo terminale che accetta le carte funziona solo se esiste un'applicazione che lo guida, con cui si interfaccia, giusto? Assolutamente, è assolutamente così. Quando parlavo del processo di registrazione, il cliente dovrà scaricare l'app e dopo che verrà attivato il servizio sarà in grado di utilizzarla e configurare il dispositivo. Allora, una cosa molto interessante, io penso, poi sentiamo anche Mario che ci chiama da Brescia, molto interessante è che assieme a questi sistemi si possono associare, come diceva poco fa Miragliotta, anche tutta una serie di servizi aggiuntivi. Immagino che la maggior parte siano servizi di analisi, cioè un esercente che utilizza uno smartphone o un tablet per accettare pagamenti avrà a disposizione, immagino io, poi chiediamo, una serie di funzioni per fare l'analisi di quello che succede, lo storico, fare anche degli studi, delle indagini su come avvengono i pagamenti, eccetera, eccetera. È già così o sarà così? Sarà così, è uno sviluppo che senz'altro abbiamo in mente di portare e di sviluppare tutta una serie di servizi a valore aggiunto per gli esercenti. Sì, anche perché se uno rimane o entra nel mondo digitale, poi a questo mondo possono essere connesse mille cose. Mario da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Pagliarini. La mia perplessità, al netto di qualsiasi considerazione sull'evasione fiscale, ma Se io e lei avessimo un rapporto commerciale, per cui lei mi rende dei servizi da, poniamo, 100 euro e io lo stesso prendo da lei dei servizi da 100 euro, noi possiamo continuare all'infinito a scambiarci una moneta da 100 euro, ma se ci paghiamo elettronicamente, io pago a lei 100 euro e lei ne incassa 97,5, poi lei paga a me 100 euro e ci deve rimettere 2 euro e mezzo per poter arrivare al corrispettivo totale, poi io pago di nuovo a lei 100 euro e ci devo mettere di nuovo 2 euro e mezzo e così all'infinito. E andiamo a zero, esatto. Dopo 20 passaggi il 55% della cifra è andata in transazione. Esatto. Mario, ha fatto molto bene a chiamarci a sollevare questo tema, perché questo effettivamente è un tema molto importante. Rimanga in linea perché magari la coinvolgiamo però tra un minuto dopo la viabilità. 2024. Dice Mario, giustamente, perché il problema delle commissioni è un problema, che se io scambio moneta tradizionale non ci sono commissioni, quindi quella moneta possiamo continuare a scambiarcela all'infinito. In questo caso invece il budget che noi mettiamo a disposizione per questo scambio viene eroso dalle commissioni. Volevo sentire, prima di sentire Adorini di Payleven, un commento anche da Miragliotta. Il problema delle commissioni è un problema e io mi aspetterei, Miragliotta, che con l'evoluzione di questi sistemi le banche, ma non solo le banche in questo caso, perché c'è tutto un complesso sistema dietro a questi circuiti elettronici, questo sistema riduca le commissioni. Mario, rimanga in linea che poi magari le facciamo una domanda finale. La dinamica delle commissioni è una delle dei costi di commissione è una di quelle su cui c'è più attenzione, anche perché nell'ingresso della moneta elettronica in quella che è stata l'area tipica di applicazione del contante, i vecchi modelli di tariffazione possono portare degli effetti distorcenti che quindi possono alla fine della fiera non incentivarne l'utilizzo. Per questo c'è effettivamente una riflessione che è molto articolata, anche perché gli schemi transazionali, gli schemi di fondamentalmente di flussi finanziari che vengono regolati tra chi acquista, chi acquisisce il pagamento, chi ha emesso la carta, sono davvero abbastanza articolati. Però vorrei fare un'osservazione in merito a questo. Uno dei punti su cui la ricerca che il Politecnico fa si è concentrato maggiormente è quello relativo alla quantificazione dei costi del contante. I costi del contante sono assolutamente non percepiti nella loro pienezza, poiché andando a considerare… Sì, perché li paga il sistema, abbiamo pochi minuti. Miragliotta. Sì, quindi diciamo nella media arriviamo a stimarli tra l'1,5% e il 2% e anche questi vanno in qualche modo considerati, poiché la moneta certo, che viene scambiata ha realtà un costo. È evidente, no, ma infatti questo effettivamente è uno dei temi, però è chiaro che il cittadino singolo non toccando direttamente questo costo non lo considera. In alcuni casi io insisto molto sul tema della sicurezza, ma anche sicurezza fisica contro il furto, perché pensate ad esempio adesso non cito il caso dei benzinai dove le commissioni sono molto, insomma, un po' un problema, però ad esempio il tassista, se girasse solo e accettasse solo pagamenti elettronici, avrebbe, e questo si sapesse in giro, chiaramente i ladri non ci vanno più a rapinare i tassisti. Adorini, cosa dici tu? Sono assolutamente d'accordo. Il costo dell'utilizzo del contante è un costo che non conosciamo. È un costo però effettivamente che vale... queste commissioni sono ancora alte. Poi voi dite, non è colpa nostra. No, sì, ci sono dei costi di sistema e di processing che sono molto alti. Per far passare una transazione sui circuiti di pagamento bisogna pagare tutta una serie di attori e noi non siamo senz'altro quelli che si prendono la fetta più larga, ecco. Mario vuole fare una considerazione finale. Effettivamente... Ma sì, mi sembra di assistere alla coda della campagna elettorale con queste riflessioni articolate. No? Beh, però non sono candidati contante, nostri. Fortunatamente. Sì. Il contante lo si paga una volta, viene stampato, costa lo 0,75% del valore, mi sembra di ricordare, e stop. Sì. La commissione è un balzello che si ripete ogni volta che noi andiamo a fare un pagamento, sono cose ben diverse. Mario, lei però è d'accordo, io sono un grande sostenitore della tecnologia diffusa e utilizzata ovunque, perché spesso i vantaggi dell'utilizzo della tecnologia sono superiori agli svantaggi. Lei è d'accordo che se il sistema abbassa di molto le commissioni, sperando poi che l'utilizzo del contante viene diffuso, ci sono dei vantaggi, ad esempio quello della sicurezza, cioè dei furti? È chiaro che ci sono anche i pirati digitali che fanno i furti virtuali, ma quello è un capitolo. Hanno clonato la carta di credito a Bill Gates. Quindi sì, mi sembra che sul lato della sicurezza... Lei è un po' scettico, però insomma mi è piaciuto il suo intervento e mi è interessato. Mimmo da Milano, buonasera, buongiorno. Ah, buongiorno. Solo una domanda di carattere tecnico. Dunque, io sono un tassista di Milano, accetto pagamenti con carta di credito. Vorrei sapere dove dovrei andare per poter accettare anche le carte NFC o il chip NFC. Ah certo, beh, è semplice. Allora, nel caso di Pay11 facciamo rispondere ad Adorini. Nel caso di Pay11 purtroppo il nostro dispositivo ancora non supporta dei pagamenti con NFC. Beh, però diciamo nel caso delle carte con chip sì. Nel caso delle carte con chip sì, assolutamente. Sì, sì. Io immagino che per l'NFC uno si debba rivolgere ai sistemi bancari. Miragliotte, dico bene? Rivolgersi ragionevolmente alla società che già ora gli offre il servizio di acquiring, chiedendo di avere un aggiornamento del POS a un modello con NFC. Sì. Probabilmente il POS se è moderno, è già abilitato, si tratta solo di aggiungere una PIN pad esterna. Mimmo, lei è entusiasta forse rispetto a questi servizi? Della risposta sì, e del prossimo futuro anche. Ecco, ma lei di fronte alle commissioni come reagisce? Cioè io le ho dato una mia risposta, cioè che i vantaggi sono... Io sono un fautore del sistema pagamento digitale e virtuale, perciò diciamo che determinate commissioni in percentuale non mi fanno paura, anche perché io sono, come dicevo prima, la sua collaboratrice, sono tassista e non faccio corse da 2000 euro, ma sono sempre le corse come tipo dal bar, dal tabaccheria. Esatto, esatto. Grazie e buon lavoro, Mimmo. Grazie, buona giornata. Adorini, per concludere, diciamo una cosa sulla sicurezza. Io ho detto più volte che questi sistemi sono sicuri. Voi che cosa dite? Sono sicuri, però come facciamo a essere certi che sia vero? Ci sono delle certificazioni senza le quali non si possono portare questi tipi di soluzioni sul mercato. Le certificazioni che ha ottenuto Pay11 sono le stesse certificazioni che hanno i POS tradizionali e il fatto che siamo stati appena lanciati garantisce che sono le ultime disposizioni normative in atto. Senti, di fronte a chi dice, beh, esistono anche i POS wireless che io mi posso tenere in automobile, se sono l'idraulico vado a casa con questo aggeggio. Ecco, voi di fronte a una obiezione del genere cosa dite? Queste sono le soluzioni che tipicamente sono più costose per i piccoli e medi esercenti. Stiamo parlando di un costo di installazione, una tantum che può andare dai 100 ai 500 euro e di un canone mensile che può andare dai 10 ai 60, più una commissione percentuale che può essere facilmente tra l'1 e il 3%. Beh. Devo dare delle forchette così ampie perché il sistema delle banche manca totalmente di trasparenza quando si tratta di costo del POS. Questo è verissimo, infatti io apprezzo Pay11 o comunque le altre società che arriveranno sul mercato che dicono costa tot, la commissione tot, tanti saluti a tutti, è tutto uguale per tutti. Migliarotta, effettivamente le banche da questo punto di vista devono un pochettino fare, adesso non so se un pochettino o molto, un passo in avanti. Sì, e credo che la competizione di questi altri strumenti aiuterà. Molto bene. Ottima conclusione, anche perché non c'è più tempo. Io ringrazio Giovanni Miragliotta dell'Osservatorio NFC and Mobile Payment del Politecnico di Milano. Buon lavoro, grazie Miragliotta, presto. Grazie a lei, buona serata. Noi naturalmente, come è ovvio, abbiamo parlato non solo di tecnologia, ma la tecnologia in questo caso ci ha spinto a parlare anche di altri aspetti che dovranno essere affrontati. Io ringrazio Alberto Adorini per essere stato con noi in questa puntata di 2024, country manager di Pay11, che è un network di società che c'è in tutta Europa ormai, giusto? Siamo presenti in 5 nazioni europee, in Italia, Germania, UK, Polonia e Olanda. Bene, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie mille. Crepi lupo. Bene, grazie a Valeria Bernardi che si è occupata della parte tecnica, Giorgio De Luca che ci ha aiutato in regia assieme a Micola al centralino. È tutto per questa puntata, ci ritrovate la prossima settimana. La prossima settimana vi annuncio, vi ripeto visto che l'ho già detto durante la trasmissione, che avremo alcune voci dal Mobile World Congress che si tiene a Barcellona. Anche in questo caso non ci aspettiamo una fiera con ricche novità, con i classici wow announcement, ma insomma ci saranno elementi interessanti da commentare. Ci risentiamo tra 7 giorni. 2024.